Thank you. Thank you. vedere un giorno vedresti la bellezza che piena d'allegria io trovo nei tuoi occhi tuoi ignaro se magia o realtà se tu fossi nel mio cuore per un giorno potresti avere un'idea di ciò che sento io quando mi abbracci forte a te e petto a petto noi Fighting, I can't. Try it. Thank you. Is it queer? That saved lost, but now am found. Was blind, but now I see. 欢迎收听歌舞剧场，我是古月。接下来请继续欣赏曹秀梅演唱的作品，舒伯特的《圣母颂》，约翰施特劳斯的《春之声》圆舞曲，亨德尔的歌剧《里纳尔多》中《任我泪水长流》，莫扎特的歌剧《魔笛》当中《帕米娜》的咏叹调《我感到》，古诺的歌剧《罗密欧与朱丽叶》中《啊，我想在这迷人的美梦中生活下去》等作品。 Oh, my bed is cute. Lascio reggere mi lascio reggere, mi fu guidare, mi fu guidare. Ma se mi toccano dove io devo restare una vivera sarò, e cento trappole prima di cedere farò giocare, farò giocare, e cento trappole prima di cedere farò giocare, farò giocare, e cento trappole prima di cedere, e cento trappole sono dolce, sono obbediente, mi lascerete. Yeah. Oh, Oh, 我喜欢旅游，喜欢